La campagna Riprendiamoci il Comune è un percorso messo in campo da TAC Italia da alcuni anni, in particolare da una constatazione di come tutte le misure messe in campo dai diversi governi in ossequio ai vincoli di bilancio previsti all'interno dell'Unione Europea avessero come obiettivo specifico quello di mettere i comuni con le spalle al muro. E poiché questo non aveva alcun tipo di razionalità, essendo che i comuni contribuiscono al debito pubblico nazionale nella misura dell'1,8%, la riflessione che abbiamo fatto era di questo tipo. Evidentemente le enormi masse di denaro accumulate sui mercati finanziari in questi ultimi decenni hanno necessità di essere investite in settori che non possono più essere quelli della produzione di beni e di merci, perché sono settori saturi, e devono quindi indirizzarsi a mettere a valorizzazione finanziaria, cioè a mettere sul mercato tutta quella parte di servizi, beni comuni, diritti che finora erano o esclusi dal mercato o, se inseriti nel mercato, pubblicamente regolati con normative nazionali eccetera. E che quindi il fatto che tutte le misure prese andassero a colpire gli enti locali fosse legato al fatto di voler mettere i comuni con le spalle al muro, in modo che potessero mettere sul mercato il patrimonio pubblico, i servizi pubblici locali, il territorio e i beni comuni. Da qui è nata la campagna Riprendiamoci il Comune, che ha un doppio significato: comune con la C minuscola, nel senso del oltre il pubblico e il privato riprendiamoci quello che ci appartiene, e il comune con la C maiuscola, nel senso proprio degli enti locali come luogo che prima era il luogo garante della democrazia di prossimità e dei diritti fondamentali e che oggi si è trasformato invece in un facilitatore della penetrazione degli interessi finanziari dentro le comunità territoriali. E quindi, diciamo, all'interno di questo percorso che dura da qualche anno, abbiamo immaginato due proposte di legge di iniziativa popolare, una che riguarda proprio la riforma della finanza degli enti locali, quindi ha un obiettivo anche ambizioso, ma che parte da un punto preciso: gli enti locali devono garantire diritti fondamentali e quindi, prima di parlare di qualsiasi tipo di pareggio di bilancio o di patto di stabilità finanziaria, occorre cominciare a parlare di pareggio di bilancio sociale, pareggio di bilancio ecologico, pareggio di bilancio di genere. Cioè, compito degli enti locali secondo noi deve essere indagare rispetto alla propria comunità di riferimento quanti bisogni sociali non sono ancora soddisfatti, come occorre riconvertire produzione e territorio in senso ecologico e quanta disuguaglianza di genere continua a sussistere dentro le comunità territoriali. Questi devono essere gli obiettivi dell'azione di un ente locale, e per questo tipo di obiettivi devono esserci ovviamente risorse incomprimibili. Il pareggio di bilancio, che noi nella nostra proposta non chiamiamo pareggio di bilancio ma chiamiamo equilibrio finanziario, è una conseguenza e non una priorità dell'intervento degli enti locali, perché la priorità degli enti locali è esattamente quella di garantire i diritti fondamentali di una comunità, cosa che oggi non è possibile, perché il patto di stabilità finanziario e il pareggio di bilancio finanziario dicono che l'ente locale può spendere solo se ha preventivamente accantonato le proprie risorse. Quello che abbiamo visto negli ultimi 20 anni è una drastica riduzione del personale degli enti locali, un azzeramento degli investimenti, tagli che vanno a colpire anche la spesa corrente, cioè quella che garantisce il funzionamento ordinario degli enti locali, tanto è vero che si stanno moltiplicando gli enti locali che si trovano in fase di dissesto, di predissesto, cioè in enormi difficoltà finanziarie. Tutto questo pregiudica i diritti delle comunità che abitano in quei territori. La seconda proposta di legge riguarda invece la socializzazione di Cassa Depositi e Prestiti. Brevemente, che cos'è Cassa Depositi e Prestiti? Dal 1850 al 2003 Cassa Depositi e Prestiti era un ente pubblico che raccoglieva il risparmio postale dei cittadini, quindi parliamo dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi ordinari, una quantità che oggi è intorno ai 250 miliardi di risparmio dei cittadini, e per più di 150 anni la Cassa Depositi e Prestiti aveva un unico compito: utilizzare questo risparmio dei cittadini per finanziare gli investimenti dei comuni a tassi agevolati. Questo meccanismo molto semplice è quello che ha permesso al nostro paese di avere una sorta di stato sociale. Se in ogni comune esistono scuole, asili nido, ospedali eccetera eccetera, è dovuto a questo meccanismo. Che cosa è successo nel 2003? All'interno dei processi di privatizzazione dei sistemi bancari e finanziari portati avanti a livello globale, si si è deciso di privatizzare Cassa Depositi e Prestiti, per cui al suo interno sono entrate le fondazioni bancarie che tra l'altro erano gli azionisti delle banche di riferimento. Si è deciso che i comuni potevano finanziarsi con qualsiasi banca, non più solo con Cassa Depositi e Prestiti. Cassa Depositi e Prestiti è diventata un SPA e da quel momento presta ai comuni a tassi di mercato. Cioè è finito quel meccanismo che consentiva agli enti locali di non stare sul mercato finanziario, e quello che si è prodotto è che da una parte gli enti locali sono sempre più indebitati perché non hanno più una garanzia di prestiti a tassi agevolati per opere che hanno un interesse generale. In più la Cassa Depositi e Prestiti si è completamente trasformata. Oggi, per esempio, Cassa Depositi e Prestiti, una delle attività che propone agli enti locali è esattamente fare da leva finanziaria per favorire la vendita del patrimonio pubblico, la privatizzazione dei servizi pubblici locali, le fusioni dei servizi pubblici in grandi multi-utility, per cui siamo al paradosso che i cittadini risparmiano i soldi, mettono i soldi in posta, questi finiscono alla Cassa Depositi e Prestiti, e invece che favorire opere pubbliche o di interesse generale prodotte nei territori, i soldi dei cittadini servono ad espropriarli progressivamente di quello che a loro appartiene, cioè patrimonio pubblico, beni comuni e servizi pubblici. Quindi diciamo l'insieme di queste due proposte di legge vuole da una parte porre un elemento di conflittualità forte rispetto alle comunità territoriali e agli enti locali, e cioè gli enti locali devono smettere di essere l'ultimo facilitatore delle politiche liberiste sul territorio e devono diventare invece un luogo di resistenza alle politiche liberiste, perché come primo elemento di loro funzione riscoprono la loro funzione pubblica e sociale rispetto alle collettività di riferimento. Per quanto riguarda proprio nello specifico Cassa Depositi e Prestiti, che adesso si sta appunto comportando come un vero e proprio soggetto speculatore, quali sono le vostre proposte concrete, la vostra idea appunto di questa socializzazione dell'ente? Sì, noi diciamo che innanzitutto Cassa Depositi e Prestiti deve restituire al Ministero dell'Economia tutte le partecipazioni che attualmente ha in società, che vanno dall'ENI alle grosse aziende di reti energetiche eccetera. Cassa Depositi e Prestiti quindi si deve ridurre come campo di attività, vanno tolte le fondazioni bancarie, quindi deve tornare ad essere un soggetto pubblico. Questo soggetto pubblico va immaginato in termini di decentramento spinto, ovviamente con elementi di compensazione, perché se facessimo la Cassa Depositi e Prestiti solo decentrata vorrebbe dire che nelle zone in cui c'è più ricchezza e quindi c'è più risparmio avrebbero poi più possibilità di fare opere, e zone più depresse non potrebbero, e quindi c'è un elemento di compensazione, ma l'immaginario su cui lavora il nostro progetto di legge è di questo tipo. Immaginiamo un comune che fa decidere alla propria comunità di riferimento, agli abitanti, quali sono le opere più importanti da mettere in campo, quindi attraverso un percorso partecipativo. I cittadini di quel territorio, con i loro risparmi consegnati a Cassa Depositi e Prestiti decentrata, finanziano le opere che hanno deciso collettivamente, e questo innescherebbe un meccanismo virtuoso che permetterebbe, uno, di avere finanziamenti a tassi agevolati, quindi di togliere i comuni dal mercato speculativo finanziario. Secondo, ricostituirebbe coesione sociale, perché sarebbero gli abitanti di un territorio a decidere insieme le opere, quali sono le opere prioritarie da fare, le finanzierebbero con il loro risparmio postale, e questo avrebbe, oltre che innescare un circolo virtuoso dal punto di vista della coesione sociale, permetterebbe per esempio un controllo popolare sia sulle cose che vengono fatte, evitando quindi sprechi, corruttele, e si instaurerebbe una sorta di controllo democratico sulle cose che abbiamo deciso e sulle cose che abbiamo finanziato tutti assieme. Avete in programma qualcosa in futuro? Quali sono i prossimi passi di questa campagna? Allora, noi abbiamo deciso, poiché far partire una campagna non può essere frutto solo di una volontà anche un po' velleitaria, abbiamo deciso di utilizzare tutti questi mesi, da qui fino a luglio, per confrontarci con reti di movimento, reti associative, forze sociali, sindacali, eccetera, per capire capire se questo è un elemento in cui molti si possono riconoscere per costruire una massa critica che sia reale, che permetta poi una vera e propria campagna. Diciamo che tra giugno e luglio tireremo le fila di questa seminagione, e se la verifica sarà stata positiva, l'idea è quella di partire con la vera e propria campagna di raccolta firme sulle leggi di iniziativa popolare all'inizio dell'autunno. Se la verifica non avrà dato i risultati sperati, proseguiremo con la campagna Riprendiamoci il Comune, capendo tutti insieme come articolarla. Devo dire che, diciamo, in questi mesi in cui stiamo un po' confrontandoci con diverse reti associative di movimento, sentore positivo, cioè tutti comprendono un elemento fondamentale, che se non si mette a sistema la questione delle comunità territoriali e degli enti locali, anche le singole vertenze rischiano di essere tanto generose quanto inefficaci, perché diciamo l'attualità è che chiunque lotta per un asilo nido a sistema tutte le vertenze territoriali, facendo diventare il terreno delle risorse finanziarie del comune, del come un comune si finanzia, del debito degli enti locali, un elemento di conflittualità, quindi un terreno di lotta e non invece uno scenario preconfezionato dalla narrazione dominante come se fosse intoccabile, soprattutto come se fosse oggettivo.